Mo. Hola. Chi è? Francesco, tu sei? Ciao Francesco, alla domanda chi c'è sul 10 io ti rispondo nessuno, più nessuno, sono tutti nelle ville al mare, capito? Sono tutti ricchi e non entrano più al baracchino. A settembre ne riparleremo. Boia, io sono qui che sto impazzendo con una base magnetica e non si riesce a venire a capo, per quanto semplice sia. C'era lo spinotto che ballava, quello che fa il baracchino, lo metto nuovo e non c'è continuità. Ho il cavo interrotto da proprio all'interno, bisogna cambiare tutto il cavo, forse prima a pigliarmi la base nuova, bisogna smontarla tutta dentro, risaldare, ui. Ho provato a mettere il PL nuovo e niente. Allora ho fatto contatto tra l'inizio e la fine del cavo, no, la calza proprio. Il centrale c'è, ma la calza non c'è. Non c'è continuità, è interrotto dentro il cavo. Poi devi vedere che qualità schifosa del rame. Praticamente come ho sezionato di lungo il cavo per rimettere il PL nuovo, il rame se ne scendeva da solo, capito? Era tutto sfaldato, uno schifo. È da ricomprarmi, perché qua poi la devi manomettere a tal punto che si rompe. E faccio prima a prendere la nuova, purtroppo. Oh, ce l'ho 10 anni già, 10 anni, sai, metti e togli l'acqua, il coso, i colpi che prende. Durata anche troppo, dai. Allora, io sto usando un apparecchio che è molto generoso nei controlli di segnale, sta arrivando 9. 9 però non è un 9 reale, io lo so già, potrebbe essere 8, anche 7, però chi lo sa, mai dire mai. E in teoria dovrebbe essere 8, comunque se mi dai un istante metto il 3009. Un attimo solo, devo solo cambiare antenna, un attimino, vediamo la situazione, un attimino solo che mi sto azzuffando con i cavi microfonici, vieni avanti, fammi rinnovo i due passaggi. E cacchio, non dico la differenza, ma la cosa era abissale, fuori dal normale pure. Allora, mi vergogno anche a dirtelo, fammelo veloce, tata. Allora, 7,5 attaccato, e quello a LED mi segnava 9, prova staccato di nuovo. Santiago 5, Santiago 5 da Liscio, ma sembra anche più basso del dovuto, mi segnale. Di solito tu da Liscio non arrivavi mai così basso, a meno che non dipenda da me. Comunque stazionari qui non ne ho, niente stazionari. Quindi ricordati, 5 Liscio, 7,5 attaccato, e quello mi segnava 9, addirittura mi segnava 8 il da Liscio, da 5 a 8, immaginati. Sì, questo potrebbe essere un po' tirchio, ma l'anima, quello a LED è allucinante, è come che non ci sia, dai. Oh, poi chi lo sa, può darsi pure mi che per quanto sia leggermente generoso sia più preciso quello a LED mi che non questo del 3009. È l'unico che può dare il segnale giusto è il Kenwood, ma quello l'avevo fatto fuori anni e anni fa, non mi piaceva proprio. Io attualmente il 3009 che c'ha 3 watt, però 3 watt al momento, prima erano 10 con l'altro apparecchio, ma non cambia niente, poi alla fine mezzo Santiago cambierà. Bene, io qua, cioè è inutile anche saldarlo questo spinotto, perché vedo che comunque non c'è continuità nella calza, poco da fare c'è. Poi ma non avevo mai visto una calza in rame che si sfalda, e di chi so cavo quello cinese mi, ci vuole l'RG8 quello buono, l'RG58 buono, quello con la calza buona, come si chiama? Norme 1000. Eia, peccato però, e sai da cosa me ne sono accorto? È già il secondo apparecchio di quelli moderni che messo in macchina mi dava un innesco, nella modulazione mi dava un innesco. Ecco che strano. E prima non lo faceva, io l'avevo usato poche settimane prima, non lo faceva. Questo qua si è rotto del tutto qualcosa, perché poi questo cavo, no? Come lo avvolgi tante volte, no? Lo togli e lo metti dalla macchina, poi con quel rame lì si sarà rovinato. E che qui per, porca miseria, per cambiarlo devi, poi c'è qualcosa, quel morsetto che stringe forte che non lo puoi allargare senza far danno. E la prendo nuova, tanto sono rotti anche i fermini delle viti, c'erano dei colpi. È lungo da spiegare, vai. Comunque 20 euro costa. Da internet 20 euro più 7-8 euro di spedizione. Pazienza, però caspita, poteva durare più di 10 anni. 10 anni è una durata misera, mi però. Oh. Vabbè, quelle che facevano una volta ti duravano una vita ti duravano. Adesso è tutta roba cinese, tutto, anche questa roba Midland, le antenne, le basi, tutto è fatto in Cina. Francesco, io qua vabbè non ho combinato nulla, vedo che non c'è, cambiare il cavo è una rottura di scatole da non poco, tutto crimpato qua, c'è un casino da fare per rimetterti a posto, quindi non ci perdo nemmeno tempo, guarda, tolgo il PL, quello buono, nuovo, me lo tengo da parte, preferisco pigliare la base nuova. Pazienza, comunque farò delle prove ancora, proverò altre basi magnetiche a vedere se... Sì, io non è che ne sia senza, già ce l'ho un'altra, quella Sirio piatta, larga larga, da 16, e... solo che devo ritarare l'antenna veicolare, la devo ritarare perché in base alla grandezza della magnete mi cambia un po' i parametri. Comunque, meglio che niente, ok, nel frattempo di acquistarla, già non sono senza, tanto non venici uno, è inutile anche comprare apparecchia, potrei anche non prenderla più mia l'antenna da macchina, tanto. Come si può che non sono ancora tanti altri, io e il vicendo, c'è qualcosa che copre ora, e via, io so che guarda la ruota, la lente super 15, la cosa, da usare, costa un mezzo di tempo, 220 euro. Sento propagazioni sotto, comunque la radio è limpida. È chiara, chiara e è abbastanza forte in rapporto al segnale, dai. Ciao Francesco, alle prossime, ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao.